Giuro mai non sono stato con lei, lo sai. E allora guardo un po' più in là, persino Giacomo lo sa, lo chiamo e sento che non mi va di dire tutto in novità. Andrea si sposa con quella che ha conosciuto al pub e restare seduto. Qua piove fuori e ormai sono quasi già le sei per me, nanna. Come gramo sei dentro i fondi del caffè per me, per me, per me, per me, nanna, per me. Magari lei te massacrerà. Però che strano poco fa non esser più quella cui sorridevi felice al bar. E come stavo seduta. Radia Bawala. Don't be common, be creative. Vamos! Oggi è venerdì 29 novembre 2013 e sono le ore 18:30 e su Radio Bawala sta per iniziare la prima puntata di Lo sapevi che? Eccoci qua in diretta, finalmente il nostro desiderio si è avverato. Allora, sì, sono in compagnia di due giovanissime ragazze, anche Laura, bellissime direi, e Gaia. Sì, direi proprio di sì. Allora, siamo pronti perché siamo emozionatissimi. Sì, direi molto, prima, molto. Prima diretta, ringraziamo ovviamente Armando Lazzaro che ci ha permesso grazie tutto mille. Questo grazie, ringraziamo grazie mille. In regia Federico Raso e... grazie Federico. E niente, vi parliamo un po' di noi, sì, vi dai. Spieghiamo, diciamo, come... il nostro programma si chiama Lo sapevi che? Perché... è tutto nato perché abbiamo incontrato questa radio a una piccola festa di Ivrea, ci siamo sentiti un po' per messaggio, mail, visti di persone, abbiamo deciso di iniziare questo progetto. Esatto. Durante il nostro programma parleremo un po' di tutto, insomma, news, curiosità, record. Ci sarà un'intervista dopo... molto speciale, con un personaggio... con un personaggio importante. Non vi diciamo niente, ma un personaggio importantissimo. Dopo scoprirete tutto. Non esatto. Possiamo darvi anticipazioni, ma vi assicuriamo che ci piacerà tantissimo. Ce l'abbiamo solo noi alla Radio Bawala. Allora, parliamo un po' di noi. Vai Gaia. Allora, io mi chiamo Gaia, ho 15 anni e faccio seconda superiore. Boh, non so cosa dire. Tipo zecchino d'oro. Sì, tipo zecchino d'oro, esatto. Sport, fai qualcosa, no? No, non faccio nessuno sport, non sono un amante degli sport, devo dire, quindi mi dedico solo alla scuola, dai. Tu, Jack, cosa fai? Io seconda liceo come Gaia e gioco a tennis quando nel mio tempo libero, suono, faccio conservatorio. Di Aosta suono le percussioni e... Posso precisare, in realtà non suoni solo per le percussioni, suoni tutto. Vabbè, non proprio tutto però. Quasi tutto. Un musicista. Me la cavo abbastanza bene. Laura invece, tu? Io invece sono Laura o... Una grande sportiva. Certo. Vabbè, una grande sportiva, no. Vabbè, faccio nuoto e vivo una vita tranquilla, normale. Tra l'altro volevo salutare tutte le mie amiche che mi stanno ascoltando. Ciao a tutte. Grazie. Ciao ragazze e ragazzi. Ragazzi, esatto. Allora vogliamo parlare del tipo di canzoni che... Esatto, ricordiamo che Radio Abawala trasmette musica Creative Commons gratuitamente scaricabile da internet, non a scopi commerciali, infatti noi tutte le canzoni che mettiamo le mettiamo senza uno scopo commerciale, esatto. Quindi ringraziamo tutti i siti internet che ci permettono di fare questo. Sì. Parlando di musica, appunto, direi di partire col primo pezzo, Any Sky, All Rights Reserved. .38 su Radio Bawala, questa era Aniski All Right Reserve. Siamo tornati qui con voi, eccoci qui. Allora, Laura ci deve raccontare un fatto che le è avvenuto questa settimana. Allora, questa settimana diciamo che è andata discretamente bene. Problemone, ho perso il cappello sul pullman. Ma mistero, l'ho trovato. L'ho ritrovato, ragazzi. Sono anche molto contenta perché non era neanche mio quel cappello, ma era di mia madre. quindi... Ah. Come mai hai fregato il cappello alla mamma? Perché mi piaceva. Salutiamo la mamma di Laura. Ciao, ciao mamma. Ciao, ciao Graziella. Allora, ovviamente vogliamo che voi possiate interagire, voi pubblico possiate interagire con noi, quindi potete scriverci alla mail di Radio Abawalla, redazione@radioabawalla.net, e potrete ritrovare in un futuro la registrazione sul sito www.radioabawalla.net. Ok, allora, partiamo subito. Dato che ho perso il biglietto sul pullman, il cappello sul pullman. Beh, ci venuto in mente perdere anche il biglietto, anche sul il biglietto, pullman, capita, ho anche perso quello, tra l'altro. Non entri più. Però anche a me capita. Vabbè, parliamo, una volta che l'hai timbrato, scusa. Parliamo comunque di pullman. Allora, dato che ho perso il cappello sul pullman, ci è venuto in mente questa settimana di parlare dei pullman. Esatto. Allora, dei posti in particolare che ci sono, esatto, sul pullman. Esatto, perché noi perché... abbiamo scoperto che chi sta in fondo è un tipo ribelle e scontroso. Molto scontroso. Esatto. Wow. I boss. Un duro. Un duro. Poi? Chi sta al centro invece è un tipo solitario. I tipi solitari stanno tutti al centro. Sì. Va. Invece chi sta davanti è una persona ottimista che guarda pensa verso al futuro, futuro. Esatto, pensa al futuro. Diciamo che molto spesso uno si siede dove c'è posto. Esatto. Però senza pensare a questo, la ricerca dice che chi sta al centro è un tipo solitario. Giacomo, tu dove stai? Io non prendo il pullman. Ecco, bene. Quindi bene, non sto da nessuna ma parte. L'unica di noi che prende il pullman è Gaia. Quindi Gaia, dove ti io, siedi? Io, boh, dove c'è posto? Solitamente davanti, quindi. E allora pensi al sono futuro. Sono positiva. Infatti tutto ti fare. Vediamo sempre avanti. Allegra. Con le idee. Sempre. E vabbè. Anche da ricordare, perché noi abitiamo in una zona non proprio centrale di Ivrea, quindi abbiamo un servizio un po' scadente, diciamo, sì, eh. Non è che sia proprio. Ma non solo noi, tante richieste ci sono state fatte da radioascoltatori che si lamentano del problema dei pullman, del trasporto pullman nella loro zona. L'unica cosa che mi viene da dire è che potete scrivere mail, contattare le aziende che vi forniscono il trasporto pubblico e in qualche modo vedere di risolvere il problema. Anche magari perché vi vogliono aiutare, farlo presente. Esatto. Noi abbiamo un brutto servizio, lo ricordiamo, sì, perché sì, siamo svantaggiati. E non siamo gli unici, quindi se anche avete dei problemi e volete farcelo presenti, mi raccomando, scriveteci sulla pagina Facebook di Radio Abawal, su Twitter e alla nostra mail redazione@radioabawalla.net. Andiamo con la seconda nostra canzone di questa prima puntata. Snow-covered streets, cancellations on my radio. Your arms so far away. These tires, they spin so slow. I feel my life roll by. I'm parked in front of this steering wheel, but I'd rather pass it in your eyes, where all my worries stand still. I'm riding this American dream and chasing these lullabies I sing through the snow. You are still the only thing that gets me by when I'm riding this American dream. You give me all the sky I need. Always a soft place to fall, and all the beauty of the open road, it doesn't compare at all to those dancing baby blues scent of your skin. Tonight I leave the storm behind. Send me in your arms. You're the only thing that gets me by when I'm riding this American dream, and love will fill me up again when I pull around that bend and find you there. American dream, this American dream, this American dream, this American dream. 18:45 minuti su Radio Abawalla. Scriveteci sulla nostra mail, la ricordiamo, redazione@radioabawalla.net, sulla nostra pagina Facebook Il Faccione Verde di Wally e su Twitter @radioabawalla. Inoltre vogliamo ricordarvi che siamo sempre Laura, Giacomo e Gaia, e vogliamo proseguire con la nostra curiosità. Esatto. Allora Gaia, parti tu? Esatto. Allora, adesso vi elencheremo gli oggetti più strani smarriti nell'aeroporto. I 10 oggetti più strani smarriti in aeroporto. La top 10. Vi stupirete. Allora, al numero 10 ci sono le riviste per adulti. Ma vabbè. Allora, può essere doppiamente interpretato. Giusto? No, c'è solo un senso. Sì, penso anch'io, però. C'è anche focus adulti. Vabbè, no, non si intende focus così. Per adulti. Pensiamola così. Proprio riviste erotiche. Così. Beh, sì. Nona posizione, vai Laura. Abbiamo gli orologi di marca del valore di più di 10.000 sterline. Vabbè, perdere un orologio di valore così importante non è... Io ci rimarrei più male. Allora, ottavo posto. Attenzione, parrucche. Come... Allora, okay. Uno ha la parrucca, capita a caldo, se la toglie un attimo e poi la lascia lì. Mi sembra sì, ma mi sembra normalissimo. Capita proprio a tutti. Sì, sì, sì, certo. Quando Giacomo si toglie la parrucca, e infatti io devo sempre ricordargliela. Sì, è vero. Il parrucchino. Ogni tanto la ritrova per Ivrea, mi dice: ah, ho trovato la tua parrucca in giro, me la riporta a casa, così. Vabbè, Laura, dai, andiamo avanti. Allora, al numero 7 ci sono le protesi dentarie. Pieno. Anche allora. Lì è molto facile. Cioè, fate attenzione quando parlate o ridete, a questo punto. O quando vi lavate i denti in aeroporto. Certo. Allora, se tu ti lavi i denti e ti togli la protesi dentaria, cosa lavi? Ah già, hai ragione. Vabbè, in qualche modo se la saranno dovuti togliere sta protesi dentaria, no? Magari ce l'avevano in una borsa, è scappata. Che ne sai, vecchietti, è vero, scusa. Può essere capitare. Al Vabbè, sesto posto abbiamo un occhio di vetro. Ah, io mi spaventerei avere un occhio di vetro lì così, vabbè. Mamma mia, cioè, pensa, cammini, ti becchi un occhio di vetro per terra, lo pensi. È stato un occhio di vetro. L'occhio di vetro. Vabbè, quinto posto, vai Gaia, questo è il tuo momento. Un teschio finto. Perché, Gaia, ti piace così tanto il teschio Perché finto? Perché trovo veramente una cosa stranissima, un teschio in aeroporto, è incredibile, però... Un teschio vabbè. In aeroporto, vabbè, sì, in effetti è una cosa strana. Quarto posto, attenzione, sex toys. Molto comunemente persi. Io sono stato poche volte in aeroporto e in quelle poche volte ho sempre visto sex toys dappertutto. Devo dire la verità. Io mai, sinceramente mai. No, anche stavo scherzando. Figurati se vedo un sex toys in aeroporto. A me è capitato diverse volte invece, proprio all'entrata sempre. Sì. Vabbè, allora, i primi tre ve li lasciamo con una... Con una? Domanda, ragazzi. Allora, quali secondo voi è l'ordine dei primi tre oggetti più strani smarriti nell'aeroporto? Al terzo posto abbiamo... Un libretto di assegni firmato in bianco. E poi dovete scegliere tra i primi due. quali di questi è al primo posto? Abbiamo 50.000 sterline in contanti o una borsa di diamanti? Mandate un messaggio alla nostra mail redazione@radioabawalla.net, sulla nostra pagina Facebook col nostro faccione di Wally e su Twitter @radioabawalla. Intanto vogliamo proseguire con la top 10 degli oggetti più comuni invece smarriti nel esatto report. Allora, perché quelli di prima erano i più strani, invece quelli che vi elencheremo adesso sono i più comuni. Decimo posto, un paio di scarpe. Ci può stare, certo. Uno a caldo si sgranchisce il piede, poi esce scalzo. Nono posto, laptop. Laptop o computer, no? Sì. Vabbè, ci può stare. Ottavo, chiavi della macchina. Secondo me. Sì, però. Uno le hai in tasca o in borsa. Mi sembra strano, però. Vabbè, comunque. Ok, settimo posto, Kindle. Sì. Chiunque sapesse cos'è un Kindle, ce lo mi raccomando, ce lo comunichi. Il Kindle è quel libro multimediale che si può sfogliare. Ah, allora, voglio solo dire che Giacomo, non è che ora devi fare tanto il fighetto perché hai avuto questa illuminazione. No, l'hanno suggerito. Esatto, suggerito. Quindi io riporto quello che mi è stato detto. Ok, ma non è che... Vabbè, dai, sesto posto, macchina fotografica. Macchina fotografica, uno vuole immortalare il momento del dell'aeroporto e... la macchina rimane lì. Tra l'altro mio fratello è andato due volte a Genova. Una volta ha perso il cellulare e una volta ha perso la macchina fotografica. Ah, quindi bene, è quindi... normalissimo perdere queste cose. Fortunato, okay, esatto. Al quinto posto abbiamo gli ombrelli. Sì, quelli li dimentico anche a casa, ad esempio. Quindi non so più dove li metto. Arrivo a casa, li metto in un posto, poi non li trovo più, quindi... Io l'ho persi sul pullman. L'ombrello è veramente facile. Sì, è vero, da... l'ombrello capita sempre. Di nuovo sul pullman. Sì. Il pullman ha un abbonamento a prendermi sempre le mie... oggetti. Quarto posto, iPad. Se io dovessi perdere il mio iPad, non va bene. Sto Giacomo, attento. Secondo me, piangerebbe dal mattino alla sera, notte e giorno. Per una settimana. Di più. Allora, i primi tre. Quali secondo voi tra questi tre oggetti più comuni smarriti nell'aeroporto è al primo posto? Terzo posto, telefoni cellulari. Oppure capi di abbigliamento oppure cinture. Mi raccomando, mandateci una mail, la ricordiamo un'altra volta, redazione@radioabawalla.net, la nostra pagina Facebook e la pagina di Twitter @radioabawalla. Quindi mi raccomando, aspetta, informateci, cioè mandateci messaggi, quale, ripeto le domande: top 10 degli oggetti più strani smarriti nell'aeroporto, quale tra questi oggetti è il più strano, una borsa di diamanti o 50.000 sterline in contanti, e qual è invece l'oggetto più comune smarrito nell'aeroporto? Capi di abbigliamento, telefoni cellulari o cinture? Vai Federico! Insieme passeggiamo, mano nella mano. Il fuoco che ci scalda e l'acqua che... 18:55 minuti su Radio Bawal. Scusate, c'è stato un piccolo problema per quanto riguarda il pezzo che avete appena ascoltato, lo rimanderemo più avanti. Comunque, questi erano gli Acustica dalla Liguria, un pezzo che ci ha mandato Claudio, che ringraziamo e appunto ci scusiamo. Grazie per questo mille Claudio. Disagio. Un saluto. Allora, ci sono arrivate diverse risposte. Allora, abbiamo Federico che ci dice 50.000 sterline. Poi abbiamo Teresa. Ciao Tere, ti devo salutare. E devo anche salutare Lavinia. Ciao Lavi. Sì, ciao. E saluto tutti quelli che sono con Lavi. Poi vabbè. Allora, Teresa ci dice 50.000 sterline. Gloria invece, che mi aveva, è una mia amica, che mi aveva comunicato che lei non avrebbe ascoltato il nostro programma, invece mi sta ascoltando. Quindi grazie mille Gloria. Salutiamo Gloria. Ciao Glo. Bel programma, ci scrive. Vi voglio bene. Grazie, grazie. Anche noi ti vogliamo bene. Poi c'è la mamma, la di, mamma Laura. Di Laura, attenzione, ha sgridato Laura, è entrata sul suo profilo, ai. Perché ieri ho lasciato il mio profilo Facebook aperto. Giusto. E quindi mamma, non devi entrare dal mio profilo, punto. E dice che sbarrisci sempre gli occhiali. Allora, questa è vero, è un'altra mia mancanza. Purtroppo ho perso degli occhiali a una festa e niente, ora ne ho un altro paio. Vabbè, no, per forza. Come hai fatto a perderli? Dai, la Laura, bisogna fare attenzione. Poi sono caduti e poi abbiamo Evelyn invece che ci dice che secondo lei l'oggetto più strano, più strambo, smarrito è la borsa di diamanti. Ci chiede: ditemi dov'è che la vado a prendere. Magari. Guarda, se l'avessimo saputo noi saremmo già stati catapultati. Non ci sarebbe là più stata la borsa. Stai tranquilla, l'avrei portata a casa. Comunque, allora, grazie ovviamente numerose i commenti sulla pagina di Facebook, sulla radio, la mail della radio, anche su Twitter. Proseguiamo. Allora, dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori... Allora, la classifica... Esatto. La partiamo reale con i primi due oggetti più strani smarriti nell'aeroporto. Rullo di tamburi! Oh! Secondo posto, una borsa di diamanti. Mi spiace Evelyn, ma non hai azzeccato. Ci sei andata vicino. Abbiamo due vincitori, Federico e Teresa. Bravi, grazie, bravissimi mille. Rullo di tamburi per il primo posto. Oh! 50.000 sterline in contanti. Viva le sterline in contanti. Beato chi li ha trovati. Diciamo di sì. Devo solo dire questo. Ok. Allora, vi abbiamo lasciato con un'altra domanda. Quali sono i primi tre oggetti più comuni smarriti nell'aeroporto? Terzo posto, telefoni, cellulari. Wow. Sì, giusto, perché è facile. Rullo di tamburi. Oh! Al secondo posto abbiamo capi di abbigliamento. E rullone di tamburi. Oh! Cinture! Pensate un po', non l'avrei mai detto. Vabbè, no, infatti meno io. Io più telefoni cellulari. Anche io. Sì, sì, però vabbè, molto di più. E anche le chiavi. Le chiavi, vabbè, ma era in fondo le chiavi, all'ottavo posto. Io l'avrei messo più avanti. Vabbè, è una mia idea, lasciate stare. Vabbè. Ok, ok. Allora, domandone, ragazzi. Vi lasciamo con un domandone prima della prossima canzone. Allora, vai Laura, tutto secondo voi si può morire da ridere? Domanda. Cioè, allora Giacomo, tu cosa pensi? Sì o no? No. No? Secondo te Gaia? Sì. Gaia rischia, sì, perché lei... Me sì. Perché dovete sapere che Gaia ride molto... in modo strano. No, molte volte. Parla Laura, parli proprio tu. Laura, parla. La risata silenziosa. Sì. Vabbè, tu cosa pensi? Allora, io domanda? Non posso dire cosa penso perché so la risposta. Quindi, lasciamo a voi... Federico, tu cosa dici? Secondo me no. Federico dice no. Armando, tu anche no? O sì? Si può morire da ridere secondo te? Secondo me... No? Sì. Sì, Armando dice sì. Oh, qualcuno che mi sostiene. Vabbè, dai, ve lo diciamo dopo la canzone. No wind, no way out, no glory. Gotta go, gotta move, gotta make it. horses are crawling around. All that I see is nailed to crash. The air that I breathe is taking me higher, drifting away from the dark. 19:03 su Radio Bawalla. Tanti messaggi, veramente tanti, vi ringraziamo. E vi abbiamo lasciato prima di questa canzone con una domandone. Si può morire dal ridere? Allora, innanzitutto ritorniamo un attimo all'argomento di prima, perché abbiamo chiesto quale di... abbiamo elencato tra gli oggetti più strani, smarriti, un teschio finto. Ci è arrivato un messaggio da Samantha da Quagliuzzo. Allora, Samantha dice che il teschio è suo e... se l'aiutiamo a rintracciare chi l'ha trovato, chi l'ha ritrovato, esatto. Beh, riportate il teschio, Samantha. Samantha, mi dispiace tanto per il tuo teschio che hai perso, però cosa devo fare? Cioè, mi raccomando, chiunque ci sta ascoltando e ha trovato il teschio finto di Samantha, mi raccomando, Quagliuzzo, non sono tanti, si può trovare facilmente, no? Poi sì. Samantha non è un nome. Sì, sì. E poi abbiamo altri messaggi. Sì, allora abbiamo Teresa che dice che secondo lei si può morire dal ridere, o almeno io posso morire dal ridere. Bah, io ne ho qualche dubbio, Teresa. Comunque grazie per comunque il messaggio. Grazie Teresa. Poi abbiamo Chiara che dice secondo lei sì, e l'ha visto su Wild. Perché l'ha visto su Wild. Ah, vabbè, vi daremo poi dopo la risposta. E c'è ancora qualcuno che ci ha scritto. Sì, abbiamo Andrea che dice che secondo lei non si può morire dal ridere. E poi basta, non abbiamo altri messaggi. Vabbè, giusto? Comunque continuate a scriverci. Comunque allora, la risposta qual è? La risposta, ragazzi, è: non sono noti casi di individui con gravi disfunzioni cardiache che sono morti in seguito a una convulsione da riso. Insomma, le uniche persone che possono morire da ridere sono quelli che hanno gravi problemi al cuore. Esatto. Invece generalmente non si muore da ridere. Diciamo che magari si può morire da ridere quando si sta mangiando, quindi ci si soffoca. Attenzione. E comunque è un morire da ridere. Quindi diciamo sì, che è sia giusto il sì che giusto il no. Ok. Però vabbè, io direi di no. Allora, niente, adesso abbiamo i 50 record, giusto? I 50 record. 50 record, ne abbiamo veramente tanti. Sì. Adesso... ma prima diremo quelli italiani e poi quelli del mondo, giusto? Prima parleremo dei record, esatto, italiani, ragazzi. Vai, possiamo Laura metterlo a base delle curiosità, magari. Vai. Grazie Federico. Fede. Lo ricordiamo, grazie. Grazie mille. Hai azzaccata in pieno. Allora, la regione italiana che differenza più rifiuti, ragazzi, è la Lombardia. Un applauso alla Lomba. Vai, Lomba. Questo Lomba mi piace. Vai. Fantastico. Invece la provincia che ha più comuni, ragazzi, è proprio la nostra. La provincia di Torino, infatti, ha ben 315 comuni. Wow. Invece la seconda è Cuneo. Allora, invece, la regione dove si fanno più figli è il Trentino Alto Adige. Infatti, viva i trentini ci fanno ci danno dentro. Vai, Trentini, Laura, così. Laura, è la verità, un è po'. Perché fa freddo. Fa freddo, sì, lo sappiamo che fa freddo, però non è che se fa freddo ci danno dentro, così per riscaldarsi, dire. Giacomo. Allora, beh, sei un trentino, No, però sempre. Io per allora riscaldarmi mi metto vicino a una stufa, non cito dentro. Se tu non sei un trentino non puoi parlare. Se abbiamo dei trentini all'ascolto, comunicateci quanti figli avete. Siete d'accordo? Daremo però, la dimostrazione a Giacomo che è così. Che non è così. Che è così. Ecco. Allora, invece, il monumento più visitato italiano è il Colosseo. Bellissimo. Mi sembra logico, anche perché saranno andati a vederlo quasi tutti ormai io da sono anni. Andata. No, io no. Io sì. Sei mai andato a vedere Colosseo? No. Bellissimo. Che vita infelice. Tante città. Dobbiamo andare allora. Nell'Europa, ma Roma purtroppo no. Ti Vabbè. Portiamo noi a fare una visita. Una visita. Allora, invece, il paese più piccolo. Quelle belle gite coi vecchietti, sì, mi piacerebbe fare. Quando mi potrei ascoltare. Ok. Il paese più piccolo è la Fiera di Primero. Infatti è lungo solo 0,2 km quadrati. Insomma, è un buco. C'è un abitante. E basta. Una casa e un abitante. Ma neanche. Vabbè. Oh, qua c'è una foto, tra l'altro, dove c'è solo una chiesa e un campanile, basta. E un albero, penso wow. Penso che quello sia il paese. Un molto albero, bello. Mamma mia. Vabbè. È veramente un bel paese. Quando si dice avere dei bei vicini di casa. Allora, invece, il bacino più profondo del Mediterraneo. Allora, vediamo, qua andiamo a indovinare. Giacomo, cosa dici? Bacino del Mediterraneo. Sai almeno che bacini ci sono nel Mediterraneo? Non lo so, proprio direi una cavolata assurda. Dai, prova. Ma no, non lo so, vai avanti, dai. Tu Gaia, neanche io idea, non mi chiedere. Che ignorri. Allora, ma tu lo leggi, ci credo che lo sai. Grazie. Cioè. Ma scusa, allora, il bacino più profonda nel Mediterraneo è lo Ionio. Ma non era difficile questa domanda? Vabbè, che ne so io di quanto è profondo lo Ionio. Ma cioè, scusa, c'è cioè, l'Adriatico, il Tirreno. Il terreno, sì, vai avanti, dai. Allora, invece, i comuni con il nome più corto sono 5. Ah, qui che, a pari merito. Vai, Laura. Allora, Lu e Re in Piemonte. Sì. Fa pure rima. Né no, non fa rima comunque, va bene. Dove stesso. L'hai sentita la rima, non si sa. Né in Liguria, Ro in Emilia Romagna e Vo in Veneto. Io mi sarei aspettata che Né si trovasse in Piemonte. Sì, perché noi abbiamo un po' questa... Questa Né. Né. Un po' particolarità di dire Né con questa Né è un po' lunga. Vabbè, comunque... Si dice larga, no? Sì, larga. È lunga, larga, vabbè. Sì. Ah, che precisina, mamma mia. Perché? Va. Invece, il centro... abitato più alto è Tre Palle in Lombardia. Non c'entra niente in riferimento al nome vero, comunque vabbè, non importa. Ok. Abbiamo ancora quattro curiosità sul record italiani. Allora, la regione dove si leggono più quotidiani è la Lombardia. Insomma, sti lombardi sono sia intellettuali che ecologisti. Esatto. Bravi. Bravi lombardi. Lomba sempre la migliore. Beh. Poi, aspetta, ci mancano ancora due record. Il fiume più corto è l'Aril. Infatti è lungo solo 175 metri. Invece il fiume più lungo, come è risaputo, è il Po. Quanto? 175 metri? 175 metri. Vabbè. È proprio little, small. Corto. Sei no, poliglotta, Laura. Mi stupisci di volta in volta. Vabbè. Hai finito i record italiani? Ho finito. Dopo questa canzone passeremo ai record mondiali. Esatto. State a con dopo. Noi. Wanna ride with me, shorty wanna die with me, you know I'ma keep it OG, shorty wanna ride with me, shorty wanna ride with me, shorty wanna die with me, you know I'ma keep it OG, shorty wanna ride with me. Wanna ride with a gangster, I think of them haters try to take my bread like they bankers, but I got a shorty to cross all my angles and break their ass off, ball players break ankles, yeah, my shorty got a quick temper, once she sees that I'm fed up, that's when I'm gonna let in her, she hangs on my side and we ride, she took a day off, then baby we die, keep her ass polished, respect me as an artist, especially when these haters talk garbage, never one night stand, two twos by the nightstand, every night man, cause I hit a mic plan. Do a robbery, what? And then I'll probably wake her up out the bed to do a job with me. 22s, 38s, no lottery. Snapshots like photography. Woo! Shorty's more than a girlfriend. She's a blast, leave a hater in the whirlwind. Put holes in the wall, even Berlin. Yeah, my shorty's bang, you never ask where my girl's been. Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna de mi baúl lleno de televisión. Por favor no te metas en esta relación. Ella enferma, nerviosa, no ponga presión. Sin decir una palabra rompe el corazón. No te pases de la raya, te sobra un besito y apuesto que te caiga. Por eso los frecos son pocos que se salvan. Mi shorty está conmigo, mi shorty nunca falla. Shorty wanna ride with me, shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me, shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me, she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me, shorty wanna ride with me. Gonna fly for me, she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me, shorty gonna ride with me. Shorty gonna fly for me, she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Eccoci qua, lochissimo su Radio Abawalla. Tanti messaggi, ne leggiamo alcuni, vai Laura. Allora, abbiamo Chiara, Valeria e Cristina da Trieste. Allora, Chiara dice che lei ha 5 figli, ma ne vuole avere 10. Vai Chiara. Vai Chiara, dacci ancora dentro col freddo del Tirreno. Poi adesso è inverno, no. Quindi freddo del Tirreno, del cos'è? Mi confondi. Poi abbiamo Valentina invece, che lei ci dice che è del Trentino Alto Adige ed è una zitella incallita. Oh, ci dispiace. C'è qui Giacomo disponibile per te. Sì. Ti presentiamo Giacomo, cara. Ti contatto io. Ti appena... tiene compagnia. Appena un po' di tempo libero sarai il suo primo pensiero. Sicuro. Poi abbiamo Valeria invece, che ci dice che lei ha un figlio ed è del Trentino Alto Adige. Vedi cosa ho detto io, che non avevo vabbè, poi. Ma scusa, Chiara ci dice che ne ha 5, ne vuole 10. Uno fa un calcolo mentale. No, non fa nessun calcolo mentale, cioè. Va bene, cioè, comunque mi è arrivato ancora un messaggio. Ringrazio Alessio ed Emanuele che ci stanno ascoltando e ci dicono: siete grandi. Grazie mille. Volevo salutare la mia amica Andrea, che è più comunemente conosciuta come H. Ciao H. Allora, proseguiamo con i 50 record del mondo. Allora, la capitale più a nord è il Giacomo, aiutami. Reykjavik in Islanda. Sì. E ci abitano oltre 116.992 persone. Sì. Vabbè. Invece la capitale più antica è Damasco, in Siria. Beh, sì. È risaputa questa cosa? No. No, te lo sapevi? Signori, te l'ho già detto. Va bene. Poi. Grazie Laura, un complimento unico da quando è iniziata questa prima diretta. Vai avanti. Allora, il monumento più visto, mentre in Italia era il Colosseo, dovete sapere che al mondo è la Torre Eiffel. Bellissima. A Parigi, la città dell'amour. Bellissima Parigi. Amour. Parigi. Cos'è? È una canzone, questa, no? Uscita di Laura. Va bene. E invece, la nazione con la minor densità di popolazione è la Mongolia. Infatti ci sono in media solo 2 abitanti per chilometro. No Gaia, no, quadrato. Non dirlo. Salutiamo tutti i mongoli. No, questa è brutta. Ma dai. Della Mongolia. Allora, poi abbiamo la nazione dove si fanno più figli, mentre in Italia la regione era il Trentino Alto Adige. Sì. Dovete sapere che al mondo la nazione dove si fanno più figli è il Niger. Infatti in media, nel corso della propria vita, ogni donna mette al mondo ben 7, dico 7 figli. C'è molta figli. Natalità, sì, è wow. Vero. E vabbè. 7 figli per una donna è un sacco. Sì. Beh, ok. Chi è che ci ha scritto che dice di averne 5 ma ne vorrebbe altre 10? Chiara. Chiara, vabbè. Ciao Chiara. Grazie per questo commento, però vai in Niger. Vai con in i nigeriani. Giusto? Ti sentirai accolta. Riprendiamo. Allora, il paese più povero è il Congo. Ah, ci dispiace per il Congo. Sì, ci dispiace questa, molto. Questo è un record, cioè non è proprio, sì, un record, però è una pagina triste, diciamo, nelle nostre curiosità. Il paese invece dove si guida peggio è il Sudafrica. Attenzione ad andare in Sudafrica perché potreste essere investiti. Infatti, sì, attenzione. Ogni 100.000 persone ci sono 31 morti per incidente stradali. Cioè, guidate con prudenza, per favore. Senti, cioè, che consiglio. Ah, sudafricani. Poi abbiamo il paese più ricco è il Lussemburgo. Vai. Infatti ha un prodotto interno lordo con pro capite di $87.490. Lussemburgo. Lussemburgo. Beh. direi che non se la cava male, eh? Non se la cava male. Non proprio. Ora abbiamo un record un po' più particolare. Io voglio quel nome però, Ok, esatto. Siete pronti perché questa cosa sarà infinita. Allora, il nome geografico più lungo è quello di una collinetta alta poco più di 300 metri nella Nuova Zelanda. Allora, questo nome è formato da 85 lettere. E dicono che sia praticamente impronunciabile, ma la nostra Laura lo sa pronunciare. Vai. Ragazzi, tutto di un fiato, forse di due fiati. 3, 2, 1. Taumatakawakatajiangahakoao Tamateaturipukaka Yipikuma ungaoronu Kupukaiwena haikitanata. Brava! Chiunque ha fatto questa ricerca si sbagliava perché è pronunciabile questo nome. Oh, abbiamo visto. Laura l'ha dimostrato. Me lo puoi ripetere? Ma guarda, non abbiamo sentito bene tutte le lettere. Allora, vabbè. Il paese con la più alta speranza di vita è l'Andorra. Infatti, in media si arriva a 83,5. Sì, 83,5. Aspettate, abbiamo avuto una notizia. Una notizia. Una notiziona. Abbiamo raggiunto i 600 mi piace. Grazie a tutti. Vogliamo ricordare che prima Armando ci ha promesso una cosa importante. Un bacio di dama. Oh, un bacio di dama. È vero, che buono. Un po' da tirchiazzo, posso dirlo. Però vabbè, un bacio di dama. Basta. No. Boh, finito. Vedi, ci siamo giocati pure il bacio. Ecco, vabbè. Allora, la nazione più ignorante del mondo è il Mali. Mali. Questa è una battuta pessima perché sono basta, in fase. Mi hai tolto la parola dalla bocca. Comunque, vabbè. Mali. Vai avanti, dai. La nazione dove si vive meno è lo Swaziland. Sembra tipo un Gardaland, una roba in parco giochi. Sì, vero. Vero. Dove in media si arriva a 39,6 anni di vita. Pochissimo. Poco. Come l'Australopithecus. Viveva poco. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma vabbè. Uno fa i collegamenti. Sì, collegamenti che non sono collegamenti comunque. Il collegamento è, allora, il paese con la più alta fuga di cervelli è la Guyana. Non sappiamo, cioè. Più alta fuga di cervelli, la Guyana. Invece, prime del continente europeo sono Macedonia e la Serbia. Vabbè. Non è l'Italia, è una sorpresa questa comunque. No. Invece la città con la migliore qualità della vita è Zurigo in Svizzera. Infatti in Svizzera si sa, lo dicono tutti, che si vive bene. Si vive bene, benissimo, sì. Però noi non ci trasferiamo, siamo fedeli. Siamo rimaniamo fedeli qui. All'Italia. Italia. Ad Azeglio. Va bene. Cosa c'hai da dire ancora, Laura? Abbiamo qualche record curioso. Mm-hmm. Allora, io direi il nome geografico più lungo l'abbiamo detto. Quindi ci manca ancora il paese con più donne. Ragazzi, io farei un applauso. Viva le donne. Un applauso. Oltre che alle donne, farei un applauso all'Estonia. Infatti, ogni 117 donne ci sono 100 uomini. Uh-huh. Quindi io direi che questa è una cosa importante per noi donne, perché dobbiamo affermare la nostra indipendenza, libertà e tutti i nostri valori. E si scatena. E i diritti. I nostri siamo diritti. Meglio degli uomini, lo sanno tutti. Cioè, mi dispiace, uomini. Non mi pronuncio, andiamo avanti. Dai. Viva le donne, basta. Andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima canzone. Vai, Federico. That your love is for me, nenkwesiga, nenkuwa bulichimu, ze nenkuwa nebyange. Kati tukuze ogena na masi, ogamba it's past, but while you are baby, you used me. Oh God, ningejua, I wouldn't have this much kwejusa. But I'll get over you, though see man you what I did to you, just know she might hurt you. Why? You say 19 minuti su Radio Abawalla. Abbiamo con noi in studio una Antonio... persona indescrivibile, oserei dire. Meravigliosa. Cioè, un record mondiale, ora possiamo svelarvelo. Colui che nel 2012, il 13 dicembre, spaccò più angurie con la testa. Record mondiale, ragazzi. Vai, un applauso. Antonio, ciao Anto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Come allora, state? Tutto bene. Tutto comunque... bene. Possiamo darti del tu. Certamente. Siamo contenti. Grazie. Allora, parlaci un po' di te. Innanzitutto, come è iniziata questa tua avventura? Questa tua... Dicci. Modo di vivere. Raccontaci. Ma guarda, è una passione che mi è venuta da piccolo. È un po' strano come record quello di spaccare le angurie con la testa. È nato che una volta ero al mare e dietro alla spiaggia c'era un chiosco di angurie. Allora sono andato a comprare un'anguria e sono tornato in spiaggia con l'anguria da mangiare d'estate. Però anguria. Mi sono accorto che non avevo il coltello. Scusa, ci puoi ricordare quanti anni avevi? Avevo 7 anni. Intraprendente, lo so. E non avevo il coltello, allora ho detto: come la apro questa anguria? Come la apro? Domandone, come si apre un'anguria senza coltello? Ce lo dice. E ci do una testata. È chiaro. È giusto. Ma chi è che non viene in mente? Ci do una testata. Anche perché voi non ci pensate, perché io sono più lungimirante. Sicuramente. Se ci dai una testata, rimane una parte solida che ti puoi mangiare. Però anche una parte spappolata. E quindi te la puoi bere. La metti in un bicchiere e te la bevi. C'è arrivato un messaggio da Tonino che ci dice che lui, che conosce chiaramente Antonio, dice che infatti lui alle elementari, alle medie, era chiamato il genio. Tu conosci Tonino, no? È chiaro. Grandi amici. È veramente grandi amici. Da sempre. Vabbè. Ok, quindi hai iniziato questa cosa, questa tua, come possiamo chiamarla? Carriera. Perché tra l'altro tu guadagni dei soldi spaccando le angurie. Cioè hai dei contratti con dei venditori di angurie importanti. Che ti pagano. No, ho dei contratti con delle case farmaceutiche per le medicazioni. Perché alla fine di una gara è importante. Perché certo, è difficile. È ma sei anche in contatto col centro neurologico di Ivrea, no? È chiaro. È lì che ho conosciuto voi. Grazie. È vero, ci siamo incontrati. E hai un soprannome particolare? Oltre che genio. No, un soprannome. Nessuno me l'ha mai dato. Possiamo dartelo noi? Dai. Sì. Testa d'anguria. O spacca angurie. Ma che fantasia, veramente. Vabbè. Una cosa, la gente quando ti vede per strada, come reagisce? La gente è in giubilo. Mi vede e inizia a tifare. Dice: Antonio, spaccaci st'anguria. E io spacco l'anguria. È interessante. E fai bene, guaglio. Scusa, ma volevo chiederti, ma firmi autografi? Cioè sei proprio, quando la gente ti vede ti riconosce, quindi. Ma certamente, io non solo o firmo. O fai attestati. Ma sai, firmi autografi. Però non solo. È chiaro che se tu incontri Al Pacino, gli chiedi una battuta di un film, no? E allora loro mi chiedono una testata. E quindi io incontro, do l'autografo e poi do pure la testata. E le persone non si fanno male. No, le persone sono contente. Quando si dice la fortuna. E vabbè, allora vi dobbiamo lasciare un attimino. Vi lasciamo con una canzone e poi torniamo qui in studio con Antonio. Vai Federico. Like electrified strings vibrate out of the 19 e 30 minuti su Radio Bawalla. Allora, abbiamo di nuovo, cioè di nuovo, ancora qui in studio il nostro caro Antonio. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Sono, okay, sono sempre io. Ah, peraltro, posso solo leggere un messaggio? È chiaro. Federico ci scrive che lui farebbe giusto firmare l'autografo, ma poi scapperebbe per non ricevere la testata. Sì. Ma non si può fare così. Se incontri Marlon Brando, tu gli chiedi di dire: è una proposta che non puoi rifiutare. E se incontri Antonio, gli chiedi anche una testata. È chiaro, è il marchio di fabbrica. Ah, hai ragione. Non ti chiederemo l'autografo allora. No. Stai tranquillo, non lo faremo mai. Vogliamo un attimo parlare del tuo record. Scusate, ho letto una mail. C'è scritto: complimenti ad Antonio per la voce. Potresti essere tu il prossimo doppiatore di Al Pacino. Sarebbe bello. Wow, su questo avrei qualche commento. Comunque, vabbè, ricordiamo che siamo arrivati a 604 mi piace anche grazie alla tua presenza. Grazie, Antonio. grazie. Una testata a tutti. Allora, il tuo record, l'hai fatto, come ti sei allenato? Ma allora, l'allenamento capirete che è una cosa più dura, perché adesso è facile. La prima volta che dai una testata a un'anguria non è semplice. No, qui a 7 anni hai ancora la testa debole. E infatti tutte la fontanella dei neonati. Sì, a 7 anni, sì, certo. Vabbè, io direi 7 mesi più che 7 anni. Mi si è riaperta. A forza di tirare la testata. Vabbè, allora, il mio record l'ho fatto l'anno scorso, ed è su un minuto, perché dopo il minuto poi devi finire in ospedale per forza. Sì, dopo un minuto. Assolutamente. E ho fatto 73 anguria. Ah, wow, complimenti, un applauso. Grazie. Anguria, no, non quelle piccoline, quelle grandi, quelle super angurie, quelle grandi. E questo era in Italia, però io ricordo che faccio anche il tour all'estero. Addirittura. Volevo ricordare che ho letto, prima chiaramente di chiamarti, prima di riuscire a rintracciarti, aver l'onore di averti qui con noi, ho fatto delle ricerche su di te e ho trovato che tu stai cercando di organizzare dei corsi e degli istituti apposta per insegnare ai bambini questa disciplina, che comunque tu reputi base della vita. Assolutamente sì, è uno sport ingiustamente osteggiato. Tutti i bambini vanno a fare calcio, basket, nuoto. Nessun bambino vuole rompere le anguvie con la testa. Io proporrei per inserirlo nello sport, nelle Olimpiadi. Sport olimpico. È chiaro. Anche a scuola, direi. È chiaro. Durante le ore di ginnastica è giusto spaccare le angurie. Direi bisognerebbe provare. Un bel divertimento. Io conosco tante persone che spaccano le angurie perché non sanno cosa fare. Assolutamente. Come hobby. Vabbè, hobby ce ne sono tanti, non proprio solo quello di spaccare le angurie, Antonio, siamo molto onorati di averti avuto qui con noi. Veramente. Grazie mille. Ti ringraziamo. Io ringrazio voi e tutta la redazione di Radio Bawalla. E se mi permettete se volete farmi delle offerte di lavoro, perché mi rendo conto che sono un personaggio appetibile, scrivete qui a redazione@radioabawalla.net oppure sulla pagina Facebook o su Twitter. Grazie mille Antonio, bravo Antonio. Restate con noi, a tra poco. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and was sank. Silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Songs and we getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs. And we sang, shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh, bentornati su Radio Babolla. Purtroppo la nostra puntata, il nostro tempo si conclude qua. Siamo in chiusura, sì. Ringraziamo tutti i radioascoltatori, numerosissimi messaggi veramente per la prima diretta, quindi niente, li ringraziamo e vi ovviamente vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre la stessa ora, 18.30 fino alle 19.30, sempre su Radio Babolla. Ricordiamo il sito redazione www.radiobawalla.net e inoltre in caso di cambiamenti vi aggiorneremo. Seguiteci, mi raccomando, mettete mi piace alla nostra pagina di Facebook, esatto, scriveteci alla nostra mail redazione@radioabawalla.net, dateci dei vostri commenti, esatto. Dateci dei consigli, se vi siamo piaciuti, insomma siamo pronti a tutto. Non dimentichiamo anche, esatto, il profilo di Twitter @radioabawalla. E bom, niente, vi salutiamo. Prima abbiamo avuto un problema con una canzone degli Acustica, Ombra nel vento, e ve la riproponiamo e ci scusiamo ancora per il disagio. Ciao a tutti, ciao. A venerdì prossimo. Buona settimana. Insieme passeggiamo, mano nella mano. Voces sole, insieme al passo.